Prendi qualcosa di ignoto, la quantità che tu vorrai. Se provate a leggere un trattato di alchimia, sappiate che potreste incappare in suggerimenti di questo tipo. Potreste trovarvi di fronte a pagine piene di enigmi, di simboli, tanto da rendere il significato incomprensibile ai più. Eppure, di materiale ce n'è tanto. Gli alchimisti amavano scrivere, ma il loro obiettivo non era quello di farsi capire da tutti. Questo perché l'alchimia era considerata l'antica e sacra scienza e come tale andava preservata dagli occhi dei curiosi, dei non degni. Tra i vari sistemi utilizzati per esporre tacendo c'è quello della crittografia. Ad esempio il codice de Holdanis ne è un esempio molto valido. È scritto utilizzando un alfabeto con 22 segni che corrispondono alle lettere latine, mentre altri segni non hanno alcun significato e vengono posti all'inizio di una frase, giusto per depistare un po'. Poi c'è la cabala fonetica, dove non è importante l'ortografia in sé, ma il suono delle parole messe insieme, che svelano. Inoltre, attingevano molto anche dall'astrologia o dalla mitologia. Ad esempio il famoso mito di Teseo è che lotta nel labirinto di Cnosso e l'alchimista che combatte tra le difficoltà della grande opera, perché era quello a cui aspirava, realizzare la grande opera. E per superare queste difficoltà l'alchimista doveva possedere il filo d'Arianna, ossia la conoscenza segreta che fornisce la chiave. Ma in cosa consiste questa grande opera? Beh, quando si sente parlare di alchimia, la si associa all'arte di trasformare il piombo in oro, quell'oro detto anche potabile, che permetterebbe di raggiungere l'immortalità. Ma lo scopo dell'alchimia non è questo. Quello che svolge l'alchimista nella sua ricerca è una sorta di viaggio iniziatico. E infatti tutte le difficoltà, anche quelle proprie della scrittura, servono non soltanto a tener lontani i curiosi, ma sono anche lo strumento necessario per trasformare i meccanismi mentali. Sono come una sorta di prova da superare per poter risvegliare quelle regioni della conoscenza oscurate. La maggior parte degli uomini che si sono avvicinati all'alchimia lo hanno fatto principalmente seguendo questo mito della ricchezza, del potere, della longevità. Ma i veri alchimisti, oltre a svolgere l'opera in campo fisico, sono concentrati soprattutto sull'aspetto spirituale, ossia l'uno non esclude l'altro. E questi passaggi attraverso la conoscenza servono per trovare l'illuminazione. Un filosofo moderno che si firmava con uno pseudonimo, Frater Albertus, per celare la propria identità, disse che l'alchimia è il sorgere delle vibrazioni. E poi che chi non coglie il senso di questa frase non ha diritto nemmeno di tentare la sperimentazione alchimistica. È come se una persona, pur conoscendo tutte le lettere dell'alfabeto, pretende di poter leggere tutti i linguaggi che sono composti dalle lettere provenienti dallo stesso alfabeto. Voi parlate assai oscuramente troppo, ma io voglio indicare completamente la materia, senza tanti discorsi oscuri. Io ve lo ordino, figli della dottrina, congelate l'argento vivo. Di più cose fatene due, tre, e di tre una. Una con tre e quattro. 4, 3, 2, 1. Dunque 1, 3 e 4. Da 1 a 2, 1, dunque cosa aggiungere? Vi ho detto tutto.